prepare this world, make this time different than all the rest. Известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. Come passa il tempo. È passato proprio un anno esatto in questa giornata di bilanci, di risultati, di prospettive e proiezioni. Noi abbiamo deciso di aprire la settimana di Jefferson dando uno sguardo indietro al primo anniversario della caduta di Hillary Clinton, la donna che aveva detto che se il telefono avesse mai dovuto suonare alle 3 del mattino alla Casa Bianca, sarebbe stato bene che a rispondere ci fosse una persona in grado di fornire le reazioni immediate, le azioni necessarie a curare, a intervenire in una emergenza, e che la persona adatta naturalmente era lei. È andata assai diversamente, come sapete, ma Hillary Clinton, dopo un periodo di strani parallelismi in cui in un certo senso sedeva sulla poltrona di segretario di Stato, ma non veniva perfettamente, completamente coinvolta, almeno questo visto dal di fuori, nelle attività frenetiche della Casa Bianca, ieri ha parlato di Barack Obama, ha parlato in un programma assai autorevole come quello gestito sulla rete ABC da George Stephanopoulos, che peraltro è stato a lungo il comunicatore di suo marito Bill Clinton quando era alla Casa Bianca, e ha parlato soprattutto con grande spirito, come dire, aziendalistico, insomma con dei legami, una affezione e un'aderenza, un'adesione nei confronti del mandato e delle intenzioni della Casa Bianca decisamente ammirevoli. Ha detto che Obama, ormai lei è in grado di poterlo dire, è una persona forte, riflessiva, decisa, che sta facendo un lavoro eccezionale e che per lei è un onore dunque servirlo. Ha detto che quando aveva autorizzato quel famoso spot che abbiamo ascoltato in apertura, spot elettorale, in cui si diceva che Obama forse non era una delle persone capaci di gestire le crisi internazionali attraverso la telefonata alle 3 di notte, beh, si era sbagliato, e che adesso poteva confessare che Obama in realtà ha passato pienamente quel test e siede assai legittimamente nello studio ovale. Ha fatto anche una serie di dichiarazioni estremamente in tenore, estremamente in sintonia con le ultime imprese di Barack Obama, nella fattispecie il viaggio oltre oceano, il discorso al Cairo e anche quello tenuto davanti ai cancelli di Buchenwald, a cui tra l'altro, apro una breve parentesi, dedichiamo oggi il ritorno in scena, l'auspicato, desiderato, in certi casi preteso da parte vostra, il ritorno in scena di Facebook. Oggi tornate a parlare su quello che ha detto Obama. E ancora, Hillary ha parlato nel corso di questa interessante intervista televisiva con Stephanopoulos, ha parlato di Corea, ha fatto sapere che dopo il recente test nucleare la Corea rischia di tornare nella lista dei paesi che gli Stati Uniti considerano sponsor del terrorismo, con conseguente riattivazione delle sanzioni. Faremo tutto il possibile per tagliare il loro flusso finanziario, ha minacciato Hillary Clinton, annunciando che è in corso al Dipartimento di Stato un'analisi per decidere se può essere collocata a tutti gli effetti la Corea del Nord in questa lista degli stati canaglia. Se non prendiamo azioni significative ed efficaci subito, innescheremo una corsa agli armamenti nell'Asia nord-orientale. Credo che nessuno voglia questo. Poi poi Hillary, mentre Barack Obama rientrava alla Casa Bianca in anticipo, no? Sapete che ha dato il due di picche, come si dice, alla coppia Sarkozy-Carla, che l'avevano invitati, così facendo un po', insomma, quelli che possono, quelli che contano, a una cenetta a quattro, da una parte Carla e Sarkozy e dall'altra Barack e Michelle. Barack non ci è andato, ci ha mandato Michelle con le bambine, lui se n'è andato sul suo Air Force One, è tornato a lavorare in America, e lo smacco sicuramente è di quelli che contano, e stiamo naturalmente scherzando. Invece, parlando di cose concrete riguardo all'Iran, che sarà protagonista a Jefferson in questa settimana, la Clinton ha ripetuto che qualsiasi attacco contro Israele, sia ben chiaro, provocherà una immediata risposta, senza specificare se la reazione però sarebbe americana o più semplicemente israeliana. Parte di ciò che dobbiamo rendere chiaro agli iraniani, ha affermato Hillary, è che la loro ricerca di armi nucleari innescherà una sempre maggiore insicurezza, e questo in un certo senso è la seconda parte del discorso che è stato cominciato da Barack Obama in sede di discorso al Cairo, quando ha detto che comunque agli iraniani va consentito il conseguimento del nucleare pacifico per uso civile. Quanto a Israele, da Washington sono partiti nuovi ammonimenti, sempre per bocca di Hillary, dopo che Obama ha insistito sul fatto che devono essere fermati i nuovi insediamenti nei territori palestinesi. Gli israeliani sostengono che negli accordi presi durante la messa a punto della roadmap era inclusa la crescita naturale delle colonie, ma la Clinton, nella intervista all'ABC in questione, ha sottolineato che di questi accordi non si è mai parlato durante la transizione dall'amministrazione Bush a quella Obama. Qualche aftershock, qualche effetto collaterale, qualche eco del discorso tenuto al Cairo. Per il 77% degli egiziani, consultati da un sondaggio, il discorso fatto da Obama il 4 giugno ha contribuito a migliorare i rapporti tra Stati Uniti e mondo islamico. La notizia arriva dall'organismo egiziano di consultazione del governo, è stata condotta su un buon panel di 1700 rotti cittadini, e secondo il sondaggio il 77% dice che il 65 prima del discorso i rapporti tra Stati Uniti e mondo arabo sarebbero decisamente migliorati grazie alle parole pronunciate da Barack Obama. La domanda se credano a quanto dichiarato da Obama, il 37% degli egiziani ha risposto di crederci completamente, il 41% parzialmente, il 5% non ci crede per niente. Netanyahu si prepara a rispondere al discorso che Obama ha tenuto al Cairo. Il farà a sua volta un suo discorso. Per non essere da meno, anche lui ha scelto una università, naturalmente una università israeliana, Tel Aviv, quella di Bar Ilan, che è una università religiosa ebraica. Ha detto che in questo discorso parlerà di pace e di sicurezza, ma anche della sua aspirazione di arrivare alla più ampia intesa possibile con gli Stati Uniti. Nell'annunciare il discorso, sempre Netanyahu ha smentito che citazioni che mi sono state attribuite, che io non ho mai fatto, a proposito di una grave frattura con Obama, soprattutto sulla solita questione assai controversa delle costruzioni di insediamenti ebraici in Cisgiordania, dei quali, come vi abbiamo più volte detto, gli Stati Uniti, ai quali gli Stati Uniti sono completamente contrari e dei quali pretendono l'immediato congelamento. Quindi prossimo appuntamento in questa particolare roadmap della roadmap è la risposta lungamente elaborata, su cui ha riflettuto parecchio Netanyahu nei prossimi giorni, indirizzata a sua volta Barack Obama. E infine Iran, come dicevamo, l'attesa per il voto in Iran sale, tra l'altro si prevede una affluenza record. Kamran Daneshoh, che è responsabile del comitato elettorale del Ministero iraniano degli interni, prevede che tanti iraniani quanti mai in passato andranno a votare alle elezioni presidenziali che si terranno venerdì prossimo. Il responsabile aggiunto del Ministero ha organizzato l'evento secondo una strategia finalizzata alla massima partecipazione di voto. Hanno diritto a votare 46,2 milioni di elettori. I candidati sono naturalmente il presidente uscente Mahmoud Ahmadinejad, l'ex premier Mousavi, il riformatore Mehdi Karoubi e il capo dei guardiani della rivoluzione, il assai conservatore Mohsen Rezai. E le ultime ore della campagna elettorale iraniana fanno impallidire quella di casa nostra. Se è vero che la televisione di Stato iraniana avrebbe rifiutato all'ex presidente Rafsanjani la possibilità di replicare prima delle presidenziali alle accuse di corruzione che gli sono state rivolte da Ahmadinejad, lo dice l'ufficio stampa di Rafsanjani, aggiungendo che per questo motivo l'ex presidente presenterà una querela contro Ahmadinejad, e non è l'unico, perché una querela contro Ahmadinejad vuole presentare anche la moglie di Mousavi, che si chiama Zahra Rahnavard, particolarmente amata, sostenuta dall'elettorato femminile iraniano, ma che è stata accusata in televisione da Ahmadinejad di aver frequentato un corso di dottorato senza essere in possesso di regolare laurea. Lei si è incavolata moltissimo, anche lei ha detto che presenterà una querela. Quindi per Ahmadinejad, come dire, meglio vincerle queste elezioni, se no il resto dell'anno lo passerà in una aula di giudizio a rispondere delle cose che ha detto. Questi sono alcuni degli ingredienti di Jefferson di questa settimana, ma vi abbiamo detto c'è un grande ritorno, quello di Express Yourself, tra poco. Remember when we fire, then we watch it burn down. Battle in sleep, tangled in wire, surrounded in sound. Well, it was so brief, so bright, and we were so proud. And I stood up and said, let's do it again. And then I walked out. Di grandi ritorni, no? Abbiamo evocato il ritorno di Hillary Clinton, c'è anche quello di Laura Bush, che è uscita qui dal suo silenzio, a cui peraltro ci ha sempre abituato, esprimendo la sua ammirazione per la scelta di Barack Obama di nominare Sonia Sotomayor alla Corte Suprema. È tutto un mescolarsi, no? Di vecchi e nuovi personaggi in questo grande ripensamento. L'abbiamo chiamato la svolta qui a Jefferson di questa America del 2009. Questa amata musichetta, no? Sono passate due settimane. Credo che l'ultima volta che abbiamo lanciato il nostro sondaggio di Express Yourself su Facebook fosse quando Obama si prese pochi fischi, ma in realtà moltissimi applausi, quando andò a Notre Dame a parlare di aborto e di questioni etiche. Certo. ci sembrava il caso di ritentare la fortuna. Vi ricordo che avevamo momentaneamente sospeso questa partecipazione, questa interattività di Jefferson con voi ascoltatori, più che altro perché funzionava male il nostro modesto vettore, ovvero la posta collettiva, chiamiamola così, di Facebook. Ci abbiamo riprovato nel weekend, anche perché i discorsi di Obama al Cairo e a Buchenwald ci sembravano importanti e meritevoli di una reazione e di un parere espresso a chiare lettere da parte vostra, pro, contro, convinti o scettici che siate. Allora vediamo un po' come è andata, che cosa ne pensate, che effetto vi ha fatto. E allora inauguriamo la nostra carrellata con un giudizio molto particolare e molto netto di Laura, che, caro Stefano, scrive: penso che Obama sia, o lo fanno passare da giuggiolone, cioè non sa o non gli hanno spiegato, oppure forse non è in grado di capire fino in fondo il mondo arabo. E poi c'è un finale pessimistico: rimarrà scornato, loro, cioè gli arabi, sono falsi, falsissimi. Decisamente vira verso l'ottimismo invece Franco, che scrive: qualche volta il buon Dio manda qualcuno sulla terra a rimediare agli errori evidentemente della precedente amministrazione. E infine c'è Umberto, che in quattro righe cerca di condensare, e lo fa efficacemente, l'intera politica estera di Obama. Non è, credo, impresa facile. Dice: l'Iran è una scommessa ad alto rischio, mentre l'Europa per Obama non è nei suoi pensieri. È alleata, ma non aiuta e non manda soldati. È quasi irrilevante. Gli serve un altro governo invece in Israele, sempre riferito ad Obama e ai suoi intendimenti, oltre che un riformista a Teheran, qualsiasi cosa significhi. Molti dubbi, attendiamo i fatti. Obama ci pensa poco, insomma, è un velo di tristezza su questo. Dunque, Francesco ci scrive: chi fa il vostro, nostro mestiere, dopo il velinismo obamiano, questi neologismi sono terribili, mi terrorizzano, il velinismo obamiano della sua elezione e il conseguente gossip, non ha ben capito che il tipo fa le cose sul serio e non sopporta i politici che agiscono tipo il nostro, mi consenta. Questa è una decisa presa di posizione pro Obama e in favore di una politica, come dire, diversa, possibile, ma... Cristiano invidia essenzialmente, è quello che prova Cristiano. Per la prima volta in vita mia vorrei in Italia il governo americano. Questa è un'ipotesi suggestiva. Molto improbabile, diciamo così. Claudio: scusate, ma non sarebbe meglio parlare delle schifezze che accadono in Italia? Obama è importante, ma i nostri gravi problemi non sono da meno. Ma ne parliamo, come dire, mica poco. Qua invece proprio il contrario, caro Cristiano. Cerchiamo anche di guardare fuori e di non pensare solo ai nostri problemi e alle nostre questioni di immondizia, perché il mondo attorno c'è, esiste, forse ci dà degli insegnamenti, forse guardare in questi casi può essere utile a imparare. E allora Valeria invece ci informa prima di tutto che ha letto con attenzione il discorso e ne dà un giudizio lusinghiero, perché dice: è un perfetto equilibrio tra contenuti nuovi, finalmente, lo scrive tra parentesi con svariati punti esclamativi, e modo chiaro e comprensibile di esprimerli. Poi, ripensando alla lunga gestazione di questo discorso, ne abbiamo anche parlato la settimana scorsa, certo, qui a Jefferson, con il giovanissimo ghostwriter che ha lavorato in coppia, certo, in combutta, certo, con Obama, dice: mi immagino quante limature e integrazioni sono state introdotte, ma il risultato è comunque ottimo. Tra l'altro, se ne avete voglia, andate a caccia su internet, ci sono articoli gustosissimi a riguardo su come si faccia a scrivere un discorso per Obama, perché, come vi ho già raccontato, tutti gli speechwriter di Obama, quelli che scrivono i suoi discorsi, sono convinti che il migliore speechwriter sia lui, e lui non si contenta, per cui quando loro magari usano una metafora o gli leggono una particolare significativa frase di un discorso, magari lui scuote la testa e dice: no, non è questo che fossi a scrivere, non è questo che volevo dire, e ricomincia a fare la lezioncina e quelli giù a prendere appunti sui loro laptop. Comunque Pasquino invece non è convinto di tutto ciò, perché dice: il presidente del più influente stato del mondo, a mio parere, non ha uno spin doctor. Ce li ha invece. Secondo il mio modo di pensare, vuole affrontare un discorso universale di religiosità misto con una religione universale, appunto quella del Islam. Obama non sa parlare politicamente, secondo Pasquino, e usa la leva religiosa come un grimaldello, e per questo, secondo Pasquino, resta però solo uno sprovveduto. Allora, poi c'è Gianfranco che invece da un lato invoca un cambiamento culturale necessario per uscire un po' dalla spirale e dall'accoppiata Bush-Cine di 8 anni alla Casa Bianca, e poi addirittura sintetizza in 4 punti quello che dovrebbe raggiungere Obama. Se arrivassero questi 4 punti probabilmente gli darebbero tutti i Nobel insieme ad Obama, perché il primo punto: garantire la sicurezza interna. Secondo: attuare un exit strategy onorevole da Iraq e Afghanistan. Terzo: risolvere la questione palestinese e quella iraniana. 4. Mantenere la supremazia politica ed economica a livello mondiale. Manca solo trovare la vita su Marte, certo. E li ha fatti tutti praticamente. Un paio di cure anche, esatto. Francesco: Obama, a mio modo di vedere, si dimostra molto propositivo nel volere con la sua amministrazione dare una svolta, però temo che le vecchie oligarchie, burocrazie, i vecchi riti mondiali non si possano spezzare, deve ancora cominciare. Si oscilla tra ottimismo e anche un po' di scetticismo, diciamo. Perché c'è anche una Washington che va cambiata. Antonella, per concludere, è un tono positivo. Obama mi è piaciuto molto, si sente la volontà di apertura e cambiamento e mi dà molta speranza. Se ti sentisse Barack sarebbe ben contento, perché quella parolina speranza, insomma, ci ha costruito sopra una carriera. Accennato già in apertura al fatto che gli scenari da seguire in questa settimana sono tanti, sono particolari, sono di grande interesse, sono potenzialmente sottoposti a mutamenti che potrebbero influenzare poi a loro volta, in una specie di effetto domino, gli scenari circostanti e anche le aree di crisi del mondo che ben conosciamo, soprattutto medio orientale. Uno di questi scenari in questione era quello elettorale del Libano, ma i risultati non sembrano aver indotto o lasciar presupporre mutamenti particolari. Il risultato del voto legislativo libanese infatti confermerebbe la tenuta della maggioranza diciamo pro-occidentale guidata dal leader sunnita Saad Hariri. Il ministro degli interni libanese Ziad Barud, citato dalla TV satellitare araba, ha reso noto i risultati definitivi secondo i quali lo schieramento sunnita cristiano avrebbe ottenuto 71 dei 128 seggi parlamentari, all'opposizione 57 deputati. Nella precedente assemblea era la maggioranza ne aveva 70 contro 58 degli Hezbollah, dunque controllata Hezbollah. Vediamo però di derimere, di chiarire, di esplorare un po' questo panorama insieme a due ospiti che abbiamo con noi in collegamento, li ringraziamo per questo. Intanto, per cominciare, Lorenzo Cremonesi, l'inviato del Corriere della Sera, che segue da molti anni le vicende medio orientali, tra l'altro autore di una serie di titoli di grande interesse al riguardo, come Le origini del sionismo, la nascita del kibbutz o Baghdad Caffè, interni interni di una guerra. E poi c'è con noi anche una voce abituale di Radio 24, ovvero Adib Fateh Ali, giornalista a PICOM con una rubrica qui a Radio 24, cura la rassegna araba di etnia curda, nato a Baghdad da molti anni in Italia. Buongiorno Cremonesi e buongiorno Adib. Buongiorno. Allora Cremonesi, seguendo le vicende elettorali libanesi in diretta sui luoghi, la prima cosa che vorrei capire è stato... è giusto interpretarli, leggere anche questi risultati un po' come un referendum pro contro gli Stati Uniti, diciamo, comunque l'area di influenza, l'adesione, il buon vicinato agli Stati Uniti, e in questo senso una conferma a un indirizzo politico di questo genere? Ma io direi che il discorso di Barack Obama, le aperture al mondo arabo, le cinghie al discorso di Cairo, sono passati un po' in secondo piano qui in Libano. Direi che l'elemento centrale di questa campagna elettorale e del risultato del voto è stata la ricompattazione del fronte cristiano, della comunità cristiana maronita e non solo maronita, gli armeni, i greci ortodossi, in chiave anti-Hezbollah. E mi spiego. L'elemento nuovo apparso sulla scena politica del Libano dal 2005 ad oggi era la comparsa di Michel Aoun, il famoso generale, certo, della resistenza antisiriana alla fine della guerra civile nel 1988-90, che nel 2005 era passato nel fronte di Hezbollah, nel fronte del cosiddetto 8 marzo, addirittura promettendo di traghettare una buona parte dei voti cristiani appunto nel campo di Hezbollah, del partito sciita, quindi del campo filo iraniano pro-siriano. Ecco, tutto questo non è avvenuto. Quindi direi che il grande sconfitto del voto di ieri è stato proprio che qualcuno dà già per politicamente spacciato, un uomo, certo, di 72 anni che aveva puntato tutto appunto su questa alleanza. Cioè Aoun non è stato in grado di garantire ad Hezbollah quella legittimazione, diciamo, del mondo pro-occidentale cristiano che aveva promesso. Questo è il dato più interessante del voto di ieri. Benissimo. Adib, come, per tutto, buon pomeriggio anche a te. Come possiamo identificare, quali possono essere identificate come le principali cause della sconfitta di Hezbollah, a tuo parere? Parlare di sconfitta degli Hezbollah è troppo. Sinceramente è un po' improprio, perché hanno fatto il cetta del voto sciita assieme ad Amal. Uh-huh. Diceva bene Cremonesi, la scelta libanese, quella di compattare sunniti e cristiani contro un pericolo iraniano, diciamo così, perché Aoun aveva il 70% del voto cristiano con l'elezione del 2005, non dimentichiamo che subito dopo però passò sull'altro versante, quello degli Hezbollah sciiti. Mm-hmm. Ecco, l'elettorato cristiano l'ha punito, ora mantiene ancora il primo partito, bisogna dire, anche all'interno della galassia cristiana, diciamo così, però è stato prepotentemente ridimensionato, e la scelta, si può dire, è stata una scelta araba in funzione anti-iraniana. Ecco, però c'è da dire oggettivamente che i rapporti di forza tra opposizione e maggioranza è rimasto sostanzialmente invariato, certo, e lo scampato pericolo della maggioranza pro-occidentale di avere una disfatta, l'avanzata degli Hezbollah, che si temeva in molti, non si è verificata. Questo sì, però siamo di fronte a una prospettiva difficile, perché come non riuscivano a governare il paese già con la precedente assemblea, questa qua sarà la fotocopia della precedente, anche se sono cambiati i rapporti di forza all'interno dell'opposizione. Ecco, Cremonesi, questi risultati di questa elezione, in un certo senso, a tuo parere, definiscono una volta per tutte qual è il massimo spazio, la massima espansione, il massimo successo che Hezbollah può raggiungere in Libano, o sono comunque una fase all'indomani della quale tutto poi tornerà a essere in discussione, compreso questi delicati equilibri di cui stiamo parlando? Ma una volta, è un termine che in politica non si usa mai, visto il carattere cangiante e dinamico della politica, specie appunto nel mondo libanese. Quindi direi in questo momento certamente Hezbollah segna il limite, e come diceva giustamente il nostro collega, non è stata una sconfitta di Hezbollah, e Hezbollah anzi si è un po' rafforzato, ha preso, cioè, ha ottenuto, sono stati campo, nel campo uscita. Direi che l'elemento di grande incertezza adesso è il futuro. Prima di tutto, la prossima tornata elettorale, per esempio, vedrà l'allargamento al voto ai 18 anni. Adesso si vota con i 20 anni. Questo è un paese in crescita demografica, gli sciiti hanno più larga parte di giovani, quindi domani l'elettorato sciita sarà ancora più ampio, sarà ancora più vasto e quindi potrebbe catturare ancora più voti. Qui il Libano, uno dei punti, come dire, delle questioni storiche dell'identità libanese è stata sempre quella dell'identità demografica. Il Libano nacque come un paese maronita cristiano, con la protezione occidentale, specialmente della Francia, ma negli anni, negli ultimi decenni, l'elemento sciita è cresciuto. Quindi l'Hezbollah, in una realtà democratica, rappresenta la rivendicazione sciita a una proporzionale rappresentanza politica, e questa cosa, questo elemento crescerà nel futuro. Ma certamente oggi l'Hezbollah scopre, cioè ritrova i propri limiti e si apre un periodo di grande incertezza. Starà al prossimo premier, cioè Rafik Hariri, il leader sunnita, scegliere. Ecco, questo direi questo è l'elemento dei prossimi giorni per la formazione del governo: scegliere ancora la formula dell'unità nazionale che dalla conferenza di Doha dell'anno scorso in qualche modo è stata imposta a mani unite, non dimentichiamolo, con le armi, dopo i famosi scontri armati del maggio scontro, dove Hezbollah davvero con le armi in mano, l'unica milizia ancora funzionante, si è imposta, ha obbligato la maggioranza del governo signora ad accettarli come parte del governo. Ora, per Credo Vivere, di fronte alla consapevolezza di questo partito armato bellicoso, certamente non particolarmente legato alle regole del gioco democratico, quindi assorbirlo, accettarlo anche a spese di grandi compromessi nel nuovo governo, oppure tornare, però da una posizione di forza, perché Hariri sarà più forte che non signora, certamente, oppure scegliere la via dello scontro e quindi un governo, diciamo così, monocolore a guida esclusiva del 14 marzo. Va bene, grazie. Noi ringraziamo Lorenzo Cremonesi per il tempo che ci ha dedicato, ci scusiamo con gli ascoltatori per la qualità del collegamento internazionale, che era quello che era. Adib, puoi restare ancora 5 minuti con noi subito dopo le notizie del traffico? Ti ringrazio molto, ci risentiamo tra pochissimo. In linea Adib Fatek Ali, stiamo così analizzando, discutendo e chiacchierando attorno ai risultati elettorali in Libano. Tra l'altro è uscita una agenzia che fa sapere che il segretario generale della Lega Araba, Amr Moussa, si è complimentato oggi con il popolo libanese per aver partecipato con successo alle elezioni che si sarebbero svolte in un ambiente di neutralità e correttezza e in un clima di concorrenza democratica. I libanesi sono coloro che guadagnano di più in queste elezioni, che hanno permesso loro di esprimersi liberamente nelle proprie scelte, ha detto Moussa, formulando la speranza che tutti i libanesi si schierino per confermare la formula della coesistenza. Ecco, Adib, il lunedì mattina, non so come dire, la ripartenza libanese dopo questa prova elettorale può essere giustamente così rappresentata in questi termini ottimistici che utilizza Moussa. È questa la lettura migliore da dare, o ci sono ancora molti problemi di ordine politico e poi naturalmente sociale? No, direi proprio, credo sia appropriato sottolineare il senso di responsabilità dei libanesi. È una situazione davvero molto critica, dove ci sono fortissimi interessi di carattere regionale ma anche internazionale di quello che avviene in Libano, proprio per le implicazioni dell'Iran, la Siria, Israele e via dicendo. I libanesi tutto sommato hanno dimostrato assolutamente un grandissimo senso di responsabilità. Io volevo dire che ha ragione perfettamente Cremonesi quando parla di un problema demografico. L'unico censimento fatto sotto il mandato francese addirittura nel 1932 dava i cristiani in questo paese erano il 63% della popolazione, quando tutta la popolazione era 1.2 milioni, certo. Erano quasi 800 mila i cristiani, salvo poi che secondo le stime americane addirittura oggi in Libano il rapporto è assolutamente al 70% sono musulmani e 30% cristiani. Gli accordi di Taif fino al 1989 il Parlamento era composto da 99 seggi, diciamo, 54 seggi erano per i cristiani, 45 per i musulmani. Gli accordi di Taif nell'Arabia Saudita hanno portato il numero a 128 seggi, 64 per cristiani e 64 per i musulmani. Ora è evidente che c'è una rivendicazione al di là delle implicazioni di carattere politico internazionale da parte della comunità sciita ad avere maggior peso nella decisione politica, al potere nel paese. Allora, questo senso di responsabilità che stanno dimostrando tutto sommato tutte e due gli schieramenti, di non cadere delle sirene che vengono da fuori, sia da parte della maggioranza, abbiamo visto anche il moderato annuncio di vittoria da parte del capo, certo, leader, certo, della maggioranza filo occidentale Hariri, che ha detto ha vinto il Libano, nessuno ha perso, dimostra una volontà di arrivare ad una soluzione di compromesso, cioè il futuro si prospetta. È interessante sentire anche cosa scrive oggi il giornale Safir, che è molto vicino all'opposizione, certo, degli Hezbollah, dice di fare un governo di compromesso, cioè quello che si sta parlando in questo momento, è stato anche molto rilanciato da osservatori di Al Jazeera, di un governo composto da un'area, chiamiamolo così, la chiamano loro di centro, però di due leader minori dei due schieramenti, da una parte quella sciita sarebbe Nabih Berri, l'attuale presidente del Parlamento e leader di Amal, del movimento sciita Amal, meno agganciato agli iraniani, dall'altra parte di Jumblatt, che è la seconda figura nello schieramento filo occidentale, che ultimamente ha avuto anche uno scambio di cortesia con lo stesso Nasrallah quando venne accusato agli Hezbollah da parte del giornale tedesco Der Spiegel di avere complottato, aver comunque essere stati i mandanti per l'uccisione dell'ex primo ministro Hariri. Hariri, certo. Li ha subito difesi, stranamente, Jumblatt, che è decisamente antisiriano, e Nasrallah il giorno seguente ha detto ne prendo atto, sapremo essere riconoscenti. Quindi questa proposta fatta da un partito vicino all'opposizione per dire facciamo un governo magari con un sostegno esterno da parte dei due antagonisti principali, da una parte Hariri, dall'altra Nasrallah, dove questi due potrebbero traghettare il paese verso, credo che Libano non abbia una scelta diversa di questo, perché i rapporti di forza all'interno del paese sono decisamente, da una parte sì la maggioranza filo occidentale è ha il vantaggio dei numeri, dall'altra parte però gli Hezbollah sappiamo benissimo che hanno una potenza, un arsenale certo. militare nel paese. Adib, tra l'altro per parlare, per analizzare meglio il futuro di Hezbollah, che poi è una di quelle organizzazioni di cui in Occidente, in Italia ad esempio, si ha una lettura sempre più difficoltosa, sarebbe interessante tornare a parlare, per questo naturalmente ti invito a farlo al più presto ai nostri microfoni. Il fatto è che dobbiamo chiudere perché il tempo è tiranno. Questa era la prima trasmissione settimanale di Jefferson 2, l'arte della svolta. Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, Valerio Rocchetti e Fabio Cantatori per la parte tecnica a Roma e Milano. Jefferson 2 e radio24.it è la mail. È tornato Facebook in tutto il suo splendore. Iscrivetevi numerosi a redazione Jefferson 2 o Jefferson 2 Radio 24. Express yourself in replica a mezzanotte in diretta dopo le 4, qui naturalmente su Radio 24. Domani ci sentiamo. 关于。